got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena. E questa sera abbiamo un ospite, una modella, un'attrice che forse avete imparato a conoscere se guardate il giovedì sera Rai 1 e state seguendo una fiction che sta passando su Rai 1 in questo periodo. È arrivata la felicità e Francesca è una giovane donna di origini straniere molto romana, a interpretarla è TZ Abraham. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. Benvenuta TZ. Allora, modella, attrice italiana di origine etiope. So sì. Che ci hai portato qualcosa questa sera a cena, un piatto particolare per te. Sì, vi ho portato una bella lasagna. Sì, una bella lasagna, perché mi piace molto, è molto buona, è molto colorata e poi fa sempre pensare di stare a casa, no? Mangiare una bella lasagna. Italianissima, lo sentiamo dal tuo accento romano e anche dal personaggio che interpreti in questa fiction. Erede degli elfi in questa storia. Capito, Giacomino? Questa parte, se tu vuoi, potresti farla tu, che hai ricci naturali come il tuo papà. E se non riesci a imparare la parte a memoria, io vengo anche a casa ad aiutarti. Dillo al tuo papà. Magari dopo nella cena. Fiction tu interpreti questo personaggio sera. Francesca, che è l'amica di Angelica, la protagonista. Francesca è sempre alle prese con problemi di cuore, alla ricerca dell'uomo ideale con cui creare una relazione stabile, una pasticciona in amore insomma, ma soprattutto è una donna di seconda generazione di origine africana ma molto italiana, molto romana, lontana da qualsiasi stereotipo sulle persone di origine straniera. Perché hai scelto, ed è la tua prima fiction se non sbaglio, perché hai scelto di accettare questo copione, di accettare questa parte? Ma io sono rimasta folgorata quando ho letto il copione di Francesca, perché ho pensato finalmente c'è un personaggio che viene descritto senza stereotipi, appunto, come dicevi prima. Cioè una ragazza che per quanto abbia delle origini differenti si comporta e vive la sua italianità come molti italiani, quindi non necessariamente sottolineando oppure non parla come Mami di Via col Vento, ecco. Assolutamente no, ma non solo non parla, non ha proprio la presenza scenica. Io in passato non ho sostenuto, diciamo, alcuni provini o alcuni ruoli per lavori di cinema o di televisione, proprio perché io non andavo bene, perché il ruolo che veniva cercato era proprio quello, anche fisicamente, esteticamente, non solo nella parlata, diverso da me. Che ruoli ti proponevano? Per esempio, appunto, la Mami, come dicevi tu, la domestica, comunque anche abbondante, insomma, con i seni grandi, piuttosto che la prostituta, piuttosto che l'immigrata appena arrivata a Lampedusa, come se appunto il ruolo di ragazzi di seconda generazione non esistesse. Invece comunque c'è una forte presenza di ragazzi che hanno genitori asiatici o africani e che sono assolutamente radicati in Italia, quindi sono ben contenta di interpretare Francesca. A proposito di rovesciamento degli stereotipi, in questa fiction È arrivata la felicità c'è anche una coppia, radical chic, alto borghese, romana, che si presta a insegnare l'italiano a nuovi sbarcati in Italia, a immigrati che sono appena arrivati nel nostro paese, facendo sentire in colpa il nipotino. Sentiamo. Prendiamo Pigi, un bambino fortunato, no? Perché può vivere e lavorare nel suo paese, conosce la sua lingua fin dalla nascita. Un privilegiato. Voi invece siete da ammirare e da aiutare. È per questo che io e mia moglie siamo qui. Lo sapete, no? Sì. Adesso allora prendiamo compendio di grammatica italiana, pagina 5, e oggi affrontiamo... Pigi, lo prometti a nonno che tutte le volte che ti addormenti tu ti ricorderai di essere nato in una nazione occidentale e tutto sommato ricca. Te lo ricordi? Sì, nonno. Bravo, Pietro. Dunque... Papà, per favore, mi porti a casa? Sono troppo piccola per farmi venire questi sensi di colpa che dice il nonno. Certo, ma devo ascoltare. Vai, amore, vai. Tu non hai nessuna colpa. È tutto l'Occidente che deve farsi carico delle sue responsabilità. Hai ottenuto la cittadinanza quasi da adulta. Io ho ottenuto la cittadinanza dopo 19 anni di residenza, dopo 19 anni che vivevo già in Italia. Nel 2010, sì, è stata un po' una strada in salita, come dire. Adesso c'è questa nuova legge sullo ius soli. Tu, mi pare che tu abbia un'opinione su questo un po' critica. No, critica no, per carità, sicuramente riconosco i passi in avanti che sono stati fatti, perché io per esempio quando andavo a scuola mi sarebbe molto piaciuto poter approfittare, diciamo, di leggi simili. Più che critica ho una visione forse un pochino più estremista, nel senso che per me chi nasce in un paese dovrebbe essere di quel paese, dunque più radicale, quindi allargherei questo diritto non solo a chi studia. Se vai bene a scuola, se sei residente in Italia, se i tuoi genitori lavorano, allora hai diritto alla cittadinanza. E se invece nasci qui e non hai tutti questi requisiti, sono un po' più dell'idea come in America, no? Negli Stati Uniti se arrivano anche dei profughi e partoriscono lì un bambino, il bambino è americano, a prescindere dalla situazione dei genitori. Infatti lo ius soli che adesso andrà al Senato è uno ius soli temperato, insomma si guarda al reddito dei genitori, agli anni di scuola, anche alla promozione, al comportamento, tu dici insomma è una specie di premio, non un diritto. Sì, è una forma di premio perché è un modo di fare selezione, di dire tu vai bene e tu no. Invece la selezione dovrebbe essere fatta, secondo me, per carità, se nasci in un paese sei di quel paese perché respiri quel clima. Finché vivi in un paese e ti senti italiano, perché io mi sentivo italiana nonostante non avessi il passaporto, finché non hai formalmente il riconoscimento dello Stato, ti ci puoi sentire quanto ti pare, ma comunque i diritti non ce l'hai, quindi... Cos'è che ti pesava di più quando non avevi questo foglio di carta, che sembra banale, ma insomma appunto ti dà uno status diverso? Ma io sono una persona che sogna molto, no? Viaggio molto, non solo fisicamente ma anche con i pensieri, quindi quando ero piccola mi piaceva proprio pensare che il mondo fosse grande, di poter viaggiare, di poter avere delle opportunità anche in questo senso. Purtroppo io avevo un passaporto che non me lo consentiva, non me lo permetteva, perché dovunque io andassi dovevo presentare 1000 pratiche e questo in un'età, diciamo, di adolescenza diventa anche comunque molto complesso affrontare le ambasciate con tutta la loro burocrazia. Dunque, da questo punto di vista viene un pochino scoraggiato, se hai intenzione di viaggiare, di fare delle, non so, per esempio leggevo anche di studenti che per esempio fanno delle gare agonistiche e quindi sono portati per questo anche a viaggiare, no? Un po' per il loro hobby, per il loro sport. Se non hai il passaporto italiano non puoi partecipare per esempio ad una competizione, questa cosa mi sembra assurda perché vai nella direzione del premio, no? Cioè se una persona è brava, fa uno sport a livello agonistico, però se non ha il documento non può partecipare a determinati livelli. Questo per esempio io l'ho riscontrato molto nel mio lavoro precedente di indossatrice. Mi sarebbe piaciuto viaggiare di più, però non potevo perché avevo questo limite del passaporto, perché ogni volta sarebbe stato un visto, una pratica in più, ogni paese in cui andavi ti chiedevano ma ce l'hai il visto? Io no, devo farlo, e quindi tutto diventava più complesso. Ci fermiamo brevemente, ma torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Questa sera a cena siamo con Tezeta Abram, attrice, modella, una delle interpreti di questa fiction È arrivata la felicità. Ci stavi raccontando, Tezeta, della tua vita, di come te ne sei andata dall'Etiopia con tua madre, allora avevi 5 anni, di come sei cresciuta in Italia e del fatto che a un certo punto hai deciso di partecipare a Miss Italia. Perché appunto dopo 19 anni ho ottenuto questo sospirato documento che per me era proprio una forma di riconoscimento. Cioè, la cittadinanza. Assolutamente. E sì. Ti sei classificata anche molto bene fra le 60 finaliste. Sì, sì, mi sono classificata fra le 60 finaliste, ma io non, onestamente non pensavo assolutamente di vincere. Quello che a me interessava era mostrare un'Italia che piano piano si stava evolvendo, stava cambiando. Si uniformava un po' ai modelli europei, se vogliamo, perché in Italia ci si lamentava spesso che c'erano tantissimi stranieri, però poi questi stranieri mediaticamente non si vedevano. Ti sei mai sentita un modello di integrazione? Io quando per i giovani in Italia mi sono sentita un modello, assolutamente, perché dietro alla mia scelta, che può assolutamente sembrare effimera, perché comunque il mondo poi anche delle reginette, insomma, è sempre visto con quest'aurea molto, questa pagina un po' effimera, nonostante questo comunque per me era un voler lanciare un messaggio ad altre ragazze che avevano più o meno la mia stessa condizione, un modo di poter dire partecipate, cioè facciamo vedere che ci siamo, non dobbiamo sempre necessariamente aspettare che qualcuno scriva di noi piuttosto che voglia farci vedere, no? Quindi comunque questo era lo spirito con cui ho partecipato a Miss Italia. D'altro canto sono ben contenta che qualche anno dopo appunto scrittori come Cotroneo abbiano deciso di scrivere un personaggio come quello di Francesca, perché io penso che sia anche una forma di integrazione, no? Perché spesso si parla di integrazione come se l'extracomunitario che arriva in Italia si debba integrare da solo, così, senza nessuno strumento. E spesso io mi ricordo quando ero più piccola, proprio perché non c'erano modelli stranieri, tra virgolette, o di seconde generazioni che venivano rappresentate tantissimo in televisione, dunque magari io vedevo più film americani e non film italiani, perché in qualche modo non vedevo nessuna forma di similitudine, non so come dire, far vedere che ci siano italiani dai tratti di diversi, come dico ultimamente, insomma, può essere un modo anche di integrare le persone, perché se si vuole che ci si integri in qualche modo, bisogna lanciare un po', tendere una mano, no? Non so come dire, non ci si può aspettare che gli stranieri non vengano citati in nessun modo, se non solo nei giornali, quando si parla di tragedie, e poi però nella commedia non vengono assolutamente contemplati, perché questo fa sì che anche il pubblico, che potrebbe seguire appunto una fiction come È arrivata la felicità, invece di guardare È arrivata la felicità, se non ci fosse stata anche una Francesca, avrebbe guardato il film americano, dove magari ci sono degli afroamericani. Sappi che non mi fermo se non... Ciao. Ciao. Grazie di essere sceso. Grazie per avermi tirato al libro. Non pensavo di averti fatto così male, scusami. Adesso penserai che sono una persona un po' volubile e che cambio idea velocemente. Però ho ripensato a quello che è successo fra noi. Ho avuto una reazione un po' esagerata, scusami. E in fondo sarebbe un peccato finirla qui, no? Volevo dirti che ci ho ripensato e che ne dici se continuiamo a vederci, a uscire? Federico, dico che possiamo continuare a vederci. Va bene, grazie Francesca. Magari ti richiamo io, un giorno di questi, eh? Ti chiamo io un giorno di questi? Ma che cazzo vuoi dire, scusa? Io ho sbagliato a mettermi d'accordo con Vittorio, ma tu che fai? Vieni qui a casa mia in piena notte, francamente... E francamente cosa? Sono venuta a chiederti scusa. Appunto, penso che tu abbia dato troppa importanza a questo rapporto. Soprattutto se riesci a passare sopra il fatto che ci siamo messi d'accordo alle tue spalle. Mi mette ansia tutta questa tua insistenza. Forse sei un po' troppo disperata. Lo so, è un termine forte, ma mi sembri un po' troppo sfigata. Disperata, sfigata? Ma io ti metto le mani al collo, hai capito? Non sono disperata e sfigata, sei tu che sei un coglione! Vigliacco! Ma la smetti? Ma che vuoi te con sta vestaglia? Torna dentro! Maleducata! Sì, è arrivato Sean Connery, ci mancavi solo te. Io a scuola non ricordo episodi di razzismo particolari, nel senso che la scuola è un pochino strana, perché comunque a scuola prendono in giro tutti. La cattiveria è ben distribuita? Assolutamente, cioè par condicio. O l'omologazione, quindi, insomma. Per fortuna sì, non mi sento di essere stata discriminata più o meno rispetto agli altri compagni. A chi tocca. Quanto in questo secondo te ha contato il fatto che tu sei bella? Ma più che l'estetica, forse è una questione di carattere. Io ero molto molto estroversa, stavo sempre molto... poi sono un acquario, quindi un po' caciarona, se vogliamo. Quindi la personalità ha fatto la differenza? Penso di sì. Io mi ricordo quando ero piccola mi chiamavano la cavalla del Campidoglio, perché comunque sono cresciuta in un quartiere storico e molto centrale di Roma. Dunque il mio essere molto... come dire, far parte di comitive, cioè stare sempre in mezzo ad amici e non essere una ragazza che magari si isola, questo ha fatto la differenza. Non credo assolutamente che sia una questione estetica quanto di atteggiamento, appunto. E ripercorriamo un attimo la tua storia. Tu sei arrivata in Italia, che eri piccola, con la mamma. Ti ricordi l'addio all'Etiopia? Eh sì, no, quello non me lo scorderò mai, perché per me fu proprio traumatico, per me fu veramente un trauma, perché poi non, appunto io ero molto piccola, dunque non era una scelta che spettava a me, era una scelta che fece mia madre per tutte e due, non so, in cerca di buone opportunità, di un futuro migliore, insomma quello che fanno anche molti giovani italiani oggi, di andare all'estero in cerca di fortune, no? E io però d'altro canto avevo 5 anni e non volevo assolutamente andarmene dall'Etiopia. Io mi ricordo lacrime amare, non ne volevo sapere di venire in Italia. Anche perché ti allontanavi dai tuoi parenti, lì, nonni, zii. Dai miei cugini, da tutta la famiglia, che comunque... ero abituata a sentire molto vicino, sai quando sei piccola, hai bisogno, no, di questi riferimenti molto importanti, appunto, che poi quando sono arrivata qui ho perso, purtroppo, anche se ho trovato magari altre occasioni, indubbiamente. Come siete arrivate in Italia? Siamo arrivati nel 90, in occasione dei mondiali, in aereo. All'epoca non c'erano ancora queste situazioni così tragiche e drammatiche dei barconi, sono fenomeni più attuali, diciamo. Un bel salto nel buio anche per la mamma. Assolutamente sì, poi lei era molto giovane, dunque è stata molto molto coraggiosa. Per uno straniero difficilmente andare in Europa o in America è una scelta, diciamo, facile, spesso è una scelta forzata, è una scelta drammatica, non so come dire, dunque se aiutiamoli a casa loro sembra di dire sì, vabbè, loro stanno bene lì e non devono venire in Italia. Il punto è che se stessero bene ognuno nei propri paesi, no? Non verrebbero sicuramente. Com'è l'Etiopia oggi? Tu ci torni, la conosci bene, rivedi i tuoi parenti, com'è oggi? L'Etiopia, allora, ora sono un paio d'anni che non torno, però insomma appena posso vado. L'Etiopia è cresciuta molto ultimamente, sta avendo, diciamo, una sorta di boom e io ho assistito a tantissima migrazione di ritorno, cioè tantissimi amici che hanno vissuto per anni in Italia, hanno deciso, visto l'andamento un po' economico degli ultimi anni, di affrontare e di investire giù in Africa e li sento molto soddisfatti, non gli manca per niente la vita che facevano in Italia. Anche tua mamma, mi sembra di capire, è tornata. Sì, anche mia mamma un anno fa è tornata. Comunque per i genitori, ancora più che magari per noi figli, che abbiamo fatto tutte le scuole qui e ci siamo integrati anche di più, no, rispetto a loro, per loro c'è sempre questa sorta di nostalgia per cui vorrebbero sempre tornare a casa. Questo succedeva pure, penso, con molti italiani che sono andati in America subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi tendono spesso, c'è sempre un'immigrazione di ritorno, spesso. Sono più legate chiaramente alle origini. Sì, assolutamente sì, e quindi lei sicuramente c'era questa componente molto forte di nostalgia verso casa e poi magari voleva passare gli anni, diciamo, più maturi, perché mia madre è molto giovane ancora, insomma, però voleva passarli in Africa e cercava anche delle opportunità che forse qui in Italia non ci sono più. E tu pensi mai di, non so, avere delle attività in Africa, e in particolare in Etiopia, no, chiaramente? Magari. Io sento molto forte il richiamo del continente africano, ogni volta che ci torno respiro comunque un clima, come posso dire, cioè proprio di casa, anche se dopo un paio di settimane magari mi manca Roma, per lo stesso motivo, non so, è un po' una strana sensazione da descrivere per chi magari viaggia fra due continenti, però mi piacerebbe tantissimo avere un'attività. Sì, un'attività che mi porti a viaggiare spesso e tornare a casa, appunto. Un'attività, immagino, legata al tuo lavoro, quindi di modella, di attrice. Sì, per me piacerebbe fare una linea d'abbigliamento. E per quanto riguarda invece i progetti in Italia, dopo questa fiction? Allora, progetti in Italia... Ti hanno proposto cose nuove, copioni, insomma, che dove ci sono personaggi diversi dalla colf, dicevamo, la prostituta o altro. Per fortuna adesso ci sono dei ruoli sempre più interessanti, ecco. E sta leggendo una sceneggiatura che forse dovrebbero fare a teatro e ora vediamo un attimo. Bocca al lupo allora. Crepi. La cucina etiope è saporita, spesso piccante e incentrata principalmente su piatti a base di carne. Poiché ha subito le influenze delle tre religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islamismo, non si mangia carne di maiale. In alternativa si prediligono il manzo, l'agnello, il montone e il pollo. Il piatto tipico etiope è il wot, uno stufato piccante con salsa di pomodoro, cipolle e spezie, che può essere preparato con diversi tipi di carne, come il manzo e il pollo. Il forte sapore piccante è dato originariamente dal berberré, una miscela che si ottiene dalla polvere di peperoncino mescolata ad altre spezie. Il wok viene servito, come quasi tutte le portate, sulla injera, pane lievitato e spugnoso, simile a una cialda, ricavato da una miscela di teff, un cereale locale mescolato con acqua. Si tratta di un modo di cucinare la carne andando a disossarla completamente e lasciando solamente le parti più tenere, senza fili di nervi o grassi eccessivi. Tra gli altri piatti popolari nel paese segnaliamo il kit pho, carne cruda tagliata a piccoli pezzi e berberè, chibe e spezie, il messer wot, stufato di lenticchie in una salsa di cipolle e spezie, e shiro wot, crema di piselli in una salsa di cipolle e spezie. Formaggi tipici sono invece l'aib, formaggio preparato con latte di mucca, e il kibe, burro preparato con latte di mucca, aglio e zenzero, dal forte odore speziato. Mentre un buon dolce è il dabo kolo, chicchi di pane dolce fritti e colorati. Una bevanda fondamentale è infine il caffè, bun, che è nato proprio in Etiopia e più precisamente nella regione di Kaffa, da dove prende il nome. Il caffè etiopico è tra i migliori del mondo per aroma e sapore. In Etiopia bere il caffè è una sorta di rituale. Viene infatti servito per 3 volte in piccole tazzine di ceramica, accompagnato da fumi d'incenso. Grazie per essere stata con noi, a te Zeta Abram, grazie. Grazie a te Valentina, buonasera. E per questa sera, per Indovina chi viene a cena, è tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento sulle frequenze di Radio 24 a sabato prossimo, sempre alle 23. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao, a sabato. You've got to give a little. That's the glory.